facciamo quasi scotta. Bene sarà adesso, ti porto al mare, ed un gatto prende attacca mia golare, poi meno bravo.